cazzi sei allora? Cazzo! Faccia dell'orecchio di porco, ah! Buonasera! Carezze di buco, carezze di buco! È la danzura che ti soffoggiamenti! Beh, no, lascia sapere! Lascia sapere! Allora c'è da parecchi! No, sono 10 minuti! E allora? Abbiamo fatto il tempo e dopo le 7 va! E certe cose canta prima delle 7! Sa! Se pensa a palazzo la parte all'altra! Se non si è indaffarati bisogna produrre. Già fare. Chi si ferma è perduto. E mi pare di sì. Meglio non si fino non fermarsi. Lo conviene sto, lo conviene fermarsi. Bisogna andare sempre. Piano piano. Lembrere andare sempre. E infatti è così. Bisogna andare piano piano e sempre andando. Purtroppo bisogna fare così tutti andando, dai. Guarda che si ferma, chi si ferma è perduto. Infatti, chi si ferma è perduto, sì. Allora, cosa ci racconti oggi di bello? Cos'è che hai combinato? E come te la credi? Né più né manco. Si è andato in giro oggi, no? Con un ganci, mi ha fatto un giro la seconda rata. Qualcosa è fatto a me. Qualcosa è fatto a te. È giusto che sia così. Che c'è? E io invece sono a casa. Dalla gadria all'altra e a dentro. Dalla gadria all'altra. Andiamo. E che devi fare? Non è che sono andato a fare. Sto saranno. Ieri già ero in campagna. Ieri sera sono sceso in campagna aiutando il mio figlio. E per cui siamo saliti anche tardini, dai. E mi sono svagato un po', là. Fatto bene. Andare così ti sei svagato un po'. Certo. Anzi, sai io che c'è da all'altra. Così che è meglio muoversi, a meno ogni tanto bisogna farlo, perché se no diventa mandrone vero, mandrone per uscire. Infatti, purtroppo è così. C'è da fare gli altri, ma c'è poca voglia, quello è fatto. Se ci fosse stata la voglia, sarebbe risolto tutto, tutti i giorni, ma non è possibile. Alla campagna, è sempre che fa molto, per carità. E va a parlare, sono un mesetto, sono tranquillo, là, e per cui, ma che cos'è, sì, la parola, non mi vedo più di tanto. Siamo un bruciacchiave, ma quello si sa se si può bruciare ancora dopo. Ah boh, in questo non ne so nulla. Ma non ho detto nulla ancora, non hanno detto. Ah, dovrebbero dire al telegiornale. Mi pare che domani deve fare già la forestale, che ho per fra loro, perché c'è un mucchio di roba da bruciacchiave. No, che mi interessa più intanto, Quando è possibile la brucio, non è che non c'è bruciare, che non si può bruciare, no, saranno. Già da sai, volontà, a 6 chili, non ti pare bene che sai. Infatti è così, purtroppo, bisogna eliminarla. Tanto pulito è pulito, per cui c'è solo a bruciare questo un po' di bimbisa che ha sbagliato, per cui solo quello è fatto, il resto è tutto fatto, è bello pulito. pulito, tranquillo. Padre, brucio questo BB da 15 da voi, sono tranquillo, buon benedetto, va. Infatti, no, io penso che da metà ottobre si possa bruciare, o se no a fine ottobre, boh, quando comincia a essere tutto secco. Se continua così, mi pare che si può bruciare da 15. Ehi, domani c'è il coraggio. Ma non c'è il coraggio per scivolare poi. Vediamo un po', se si può bruciare una sera che ne ho voglia, scende e me la brucio un'oretta e me la brucio tutta attorno, come faccio tutti gli anni. Certo. Ma quest'anno ce n'è molto di meno, l'anno scorso, due anni fa, ho portato tutti gli alberi, c'era un saccaccio di roba, ma quest'anno poca roba, un'oretta me la brucio e deve stare tranquillo, va. Ma non ne ho fatta tanto, va. Vabbè, non aspettare per quando lo dicono, quando esce questo coso qua. Va bene, mattina, prendo il telefono e mi diranno sì o no. No, si può bruciare che sta, aspettiamo ottobre, mi diranno quando è che si può bruciare. L'anno scorso, in ottobre mi sembra, due anni fa, il primo di ottobre mi sembra che era, non me la mente, ah, mi da un po'. Perché sta facendo caldo ancora, capito? Infatti, sta facendo ancora caldo, sta facendo. Però, come te oggi che mi ha abbracciato un po' la temperatura? Caldo c'è, c'è caldo ancora. Ho visto, diciamo, dove la finestra aperta, puoi immaginare, ragazzi. C'è caldo anche la notte. Magari a parte mattina comincia a esserci un po' di freschino, no? Un pochettino. Durante il giorno c'è un po' si sta bene. Ma la sera è scesa a 15 gradi, è scesa. Oh. Buona fama, ti piace il posto, ti fa di prendere la fila a fè, molto, ti fa buona giacca, ma mi sicuro, un cappotto di pulito. Cosa qui hai un giubbotto, ciò che scendi? C'è già, mi sono dovuto pulire un giubbotto, anche per l'apprefitto. No, quando esce, metto la teppa, oh, ma cavolo si chiama, quella lì mi metto. Però sono ancora a braccia corte, capito? No, la maglietta a maniche corte ce l'ho, però ho dovuto mettere il giubbottino, ho dovuto mettere, perché ho visto che gli hanno riuscito da fuori per avere chiesto, se cazzo me la giubbotto. E sono uscito e si stava bene. Anche con la testa si sta bene, là. E per cui manca corto, poi se fa più freddo ci mettiamo la maglietta a maniche lunghe e ci abbiamo più caldo. Infatti bisogna fare così, bisogna fare piano piano e così ci copriamo un po'. Io ripeto qua, passando, entrando alla scuola, tutti a bracci corti, gatta, i pantaloncini corti, evidentemente sono i calori, sai. Vuol dire sono pieni di grasso. Due grassi non avevo. Poi sono che colpa che troncammi. Non ti chiedi di fare il fresco, cambia di morata. No, ancora no. Quando esco, anche se c'è il sole, sembra così, ma il fresco lo sentiamo. No, magari forse la gioventù non le soffre il freddo, capito? Tu senti calore, è giusto che sia così. Infatti così, se devi essere, c'è in calore. E non frenza, non radimini. Ma vedi che va nel gallo. E allora, e non si sta prendendo invece. lui si fa caldo, si sta fermo. Allora ho visto che quando c'è sole fuori c'è caldo ancora, per cui ha scoperto il tirocoviere e sto ancora. Io la voglio malare, la va a cominciare lì. Caccia. L'influenza malagiunti. Infatti, ma piano piano. Bisogna fare piano piano, bisogna fare, no? Ah, c'è ancora fattati e cose, c'è un po' così freddo. Si sa attaccare l'influenza, no, no, meglio fa tappati un po' garibbi. Ciao grido, ciao grido, chi c'ha caldo, chi c'ha freddo. Io quando c'ho freddo mi ricopro, per cui e là ti piace un po' c'è. Allora non credo, faccio non si faccio, me lo faccio tappato. Ehi, un attimo, eccoci qua. Oh, c'è un po' di propagazione però, mi sento un po' lontano, però arrivano. Certo, ve ne era una ancora che era arraiurato, era. Ci senti fare l'eco da lontano. Fai che tutti i canali, sono pieni oggi, c'è la propagazione. Però mi sono accorto la cosa, che con Colli di 3006 c'è la recessione, è più chiara, più forte. Penso con questo di meno. Sì, altro come si sentono bene, puliti, e invece rimane un po' di fraccato. Un po' chiuso rimane, così è di recensione quello. E infatti, mentre quello è più, c'è più ricezione su quell'altro, ma molto, molto, cazzo, poi rimane anche da fuori, io sto parlando di fuori, la ricezione più perfetta di questo qua. Oh, vuol dire molto più buono allora. Non mi nasce di più come il 3006, troppo bello, troppo chiaro, troppo perfetto. Questi digitali fanno piacere. Infatti così. Purtroppo non venisse più mette una buccia. Digitale hanno messo parecchia roba in mezzo, però non è che c'hanno una situazione come quello là, capito? Ah, c'è quello là è 2006, cacca. Ed ecco l'altenuta con quell'altemino mi. Ah, secondo me arrivano. Bello chiaro che pure la radio rimane più perfetta, va. Infatti, ma non sono tutti precisi. Io penso che questi che stanno facendo adesso come recensione non è che sia tanto forte. Ma infatti non è perfetto, non è chiara forte come quello là. Perché si sente, capito? Si sente. Evidentemente sono fatti con roba più buona e più precisi, quindi sono fatta a macchina gatta, e per cui sì, funziona bene, sono tante cose, però a mettere vicino quello là non è possibile. Secondo come lo fanno, se lo fanno con la macchina, no, una recensione mi pare che sia un bel cassa. Invece quelli che facevano prima sono più buoni. È in tutto ciò, anche se c'hanno meno cose, poche cose, però sono più perfetti. Questi c'hanno un medioma e per cui non sono perfetti, ecco, come quello là. Funziona bene anche qui, però non come quello là, perché è un abisso, c'è un abisso sopra. Non so se hai sentito il Galassi, cazzo, il Galassi c'è una recensione bestiale, e con il 3006 è preciso, una recensione bella, pulita, una minima cosa la senti, qua invece c'è certe cose un po' più piccole non le senti. Infatti questi ultimi che stanno facendo non è tanto buono come recensione. Quelli di prima erano molto più buoni come recensione. Come questo che ho io, questo vecchio qua e questa presidente, come recensione è molto buona. Anche se il vecchio è abbastanza forte di recensione, infatti intendo tutto. Beh, come quello che ho io, come quello del 2006, tutto c'è una recensione fortissima, mentre questi sì, ce l'era, però non è come quelli là, capito? E questi digitali sono tutti così, No. Non è che siamo stati perfetti, perché prima la roba era più sincera e più buona anche. Boh, c'è poco da fidarsi da questi digitali all'analogico. Sì, infatti così purtroppo. Prima non si può fare, manco si integra quasi tutto perfettamente, invece di soffrendo la mano. Ma è così, a far dire e basta, ormai ci sono imbastarditi di tutto però, ma tutte le cose, non è che siano buone, materiali prima, materiali buoni, dai, adesso fanno le cose in economia proprio per spendere poco e voglio guadagnare molto, ma mi sembra la questione, non è così, Infatti in digitale, digitale però come recensione non è tanto come quelli vecchi. D'accordo, anche quello di che c'è il magazzino, la Faiete, sarà quel rematto, perché ci hanno molto corrente, però lì si sa lontano, guarda, sempre tutto di ferro, e senti tutto, senti tutto. Sì, no, infatti è così, anche se c'è una perfetta recensione questi vecchi. Anche dei nuovi invece come recensione abbiamo un bel di mondezza. Infatti, ma è quello, la Faiete, e più c'è quel zodiaco, anche il zodiaco c'è il magazzino, impacchettato dentro la marietta, e non capisco, perché magari sono bene perché sono più moderni, capito, ma come resa sono migliori quelli là, questi magari sono bene in presenza, però fanno il formato degli altri, non fanno la zicca. Infatti, è così, non c'hanno un po' come quelli di prima. Vabbè, tutto lo si può avere purtroppo, cercando anche con le macchine, sono 3 anni e cominciare a rompersi le scatole, è come tutte le cose, capito? Perché prima la roba antica durava di più. La roba vecchia era molto più buona, ma sono fatte tutte in plastica, in cartoni, e la mia era più poco. studia la pacca, acqua per tutto, per cui e poi quando si rompono te la fanno pagare bella sta pulita, te la fanno pagare anche questa pulita, ma la torta già te la fanno pagare. Infatti la fase di bagaombe è la buia, è tutto plastica, certo. Sarà più moderna che su di lei, ma sono tutti in plastica. E poi non è che la puoi addensare. Cado in tasca, la presa ci aveva in tasca. E poi stai a comprare nuovo. E sì che pensi che invece prima la lavriera fa addensarsi facilmente, addensare e ci va come la nuova. Come tutte le cose. Come tutte le cose. Cosa deve fare? Bisogna accettare come si raccappava. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Adesso sta uscendo tutte le lettere perché stanno uscendo tutto. Le bagni si sono filmati elettrico. Sono uscendo quelle ibride, stanno uscendo tra l'elettrico e il motore. Quelle stanno andando parecchio. Ma perché non fanno elettrico e a benzina? Penso che ci possa fare ugualmente. Quando finisce quando si carica la batteria, attacchi la benzina e cammina sempre. Cioè adesso la batteria ha una certa autonomia, ma so qualche come il fanno. E poi devi fermare per forza a caricare la sino, come fai a partire? No, quella ibrida è tra l'elettrico e la benzina. Quindi la mattina parte con il motore, a dopo se deve salire in città fai con l'elettrico, vai. Ecco come funziona. Devi fare così più che altro. Ah, così sono. Io penso che sono elettrica, so. Invece sono benzina e aerea. Sì, quelle ibride. Quelle ibride sono così, tra la benzina e l'elettrico. Per caricare, se un po' scarica la batteria, all'elettrico, perché il motore fa caricare la batteria. E te la carichi così, te la tieni sempre in movimento. E invece c'è la batteria solo, e beh, non l'ho accata, non ci avrà la, non ci avrà il caricamento, non ce la vuoi, avrà una dinamo, con l'elettrico no. Con l'elettrico la devi lasciare in forma per un'ora e mezza per caricare. Ecco cos'è, ti devi mai fare la carica, anche se no andrà a piedi. Se sei lontano, e cosa fai? C'è l'autocaricatore sulla strada, se il percorso è lungo non c'è un caricatore, sarebbe da 6 giri, poi chiamare un garratrice. E infatti così, solo tocca chiamare un garratrice, ma è meglio avere la benzina e l'elettrico, che è meglio. Se arrivi, con una cosa, arrivi con l'altra. Io pensavo che fossi solo elettrica, senza benzina, capito? Invece tu mi stai dicendo che funziona anche elettrica e benzina. E io pensavo diversamente questo. E allora va bene, cazzo. E per cui va benissimo. E se no è più scopo, cazzo, può durare la batteria. 80-90 km. E dopo, se quando lo si fermi e se non c'è qualche rifornitore vicino, come fai? Ma adesso in ogni strada ci sono i rifornitori che ce l'hanno quella per caricare l'elettrico, quindi già arrivi, regalo così me ne arrivi. No, è sempre meglio avere... Stanno andando molto, le ibride stanno andando. No, molto. la gente preferisce più il diesel, preferisce. Senti, che cosa? Il diesel lo stanno vendendo parecchio. Il diesel magari sono più forti anche, posso dire, sono anche più forti. Magari sarà meno veloce, però è più forte, capito? Sporca anche di più i diesel della benzina, cacca. Ma non lo so. Io dico più quella della benzina del diesel, cacca. Perché perlomeno certe macchine fanno schifo, cacca. Il diesel che stanno facendo adesso non inquinano come inquinavano le altre, a quelle lì, perché sono con le marmitte e due cose e non inquinano come inquinavano prima. Prima inquinavano veramente. Ma gli altri sono che stanno nel marmite, è normale, c'è che avere quei filtri e genere, ce ne sono ancora, perché ogni tanto vedo anche in televisione con fumo come esce dalla marmita. Ma c'è fumo, che da famiglia già è a Garriera, da famiglia già, che non c'è un bel fumo da Laredo. Adesso che hanno iniettori sporchi al massimo hanno, quindi io non ce li fate nemmeno con buri. Per carità. Vabbè. Non è tutto perfetto come vogliamo noi, con qualche cosa ci serve, tutte le cose. E tutte le cose così. E infatti, fate così. Sono riuscito a uscire cosa fumo pulito deve uscire, anzi fumo nulla non ne deve uscire, dalla marmitta non deve manco uscire il fumo. Ma infatti che stanno questi filtri della marmitta, come si chiama? Catalizzatori o com'è? Non dice che ci sono questa specie di cose che sono tipo catalizzatore, però portano un bel di raggi che marmiti va pulito. E se c'è una macchina lì e forse deve cambiare la marmitta, già costa tutto troppo oggi, così che io sono tranquillo a benzina perché fumo non verrà. Poi c'è il catalizzatore anche sulla benzina, per cui sono tranquillo là, fumo non riesce assolutamente. Faccio un po' con 1200 euro io faccio un po' di filtro antiparticolato, che è un pezzo di marmitta e già fanno filmarsi. Certo, un bel ritratto, e la macchina oggi è come la famiglia, oggi la macchina è come la famiglia, già è comodo, è molto comoda per tante cose, però ci vogliono sempre soldi, tutti i giorni. Infatti, io per non farmi uscire fumo e cose, non fermarsi, ho dovuto cambiare questo filtro antiparticolato, questo pezzo di marmitta che ti ferma i fumi, che andava già a rigabbare a Rogoso a fare la revisione, che gli ha messo il tubo dentro, ma qua pulito è già ti credo con 1200 euro, eppure dove ho dovuto giamba lì il filtrante particolato, oggi ho dovuto giamba di Arugredo. E anche a Candela mai stato il tubo dentro la marmitta, quando faccio la revisione. e quella per un po' sono messo magari a vedere se è inquina oppure no, così è. La mia, quando è entrato il tubo dentro, che era in moto, fumo non ne usciva come doveva uscire, e c'era il filtro nuovo, filtro antiparticolato si chiama, ma accelerata ed era pulito, ha detto già non credo che è pulito, è nuovo, già non credo, cosa ce l'ho, tre giorni col filtrone, quando sono andato a fargli la revisione. Beh, si è messo il nuovo, guarda, per forza lo dice, si è perfetto. Ma manca quella di benzina, perché mi sono accorto quando io faccio la revisione, fanno anche quella prova, ci mettono l'attrezzo dentro la marmitta quando è in marcia, forse perché la mettono nel posto in brucia olio, perché ce ne sono che bruciano olio molto, e allora esce fumo. Io ero grigio, e dice, se io da che fuso il motore, ecco cos'è, cammina aromatese, ma il fuso è brucia olio, se buono è più di una, a polioso, che devi, ogni tanti chilometri devi aggiungere 2 o 3 litri d'olio, devi aggiungere, ma se no si rifonde, si rifà male un ducto. Quando brucia olio vuol dire che la funzione bisogna mettere a posto, perché cazzo, non qui va di fumo, ma ne per parecchio, ma che la benzina perché fanno fumo, cazzo, boh, cazzo, ma fumo io la mare, ragazzi, parecchio che ho visto l'altro giorno, cazzo, e quelli sono stati bruciati olio. Quando 3 giorni fa c'era questa macchina qua che usciva molto fumo, e io dietro c'avevo i vigili urbani, ma in bocca la girava, ma il giorno passato era visto a fine del ponte giù, l'hanno fermato e l'hanno fermato e gli hanno fatto prendere il carattrice e portarlo in officina, ma non è fatto circolare più, no, l'hanno bloccato, hanno ritirato il libretto e l'hanno mandato, sino a che non aggiustava la macchina non glielo davano il libretto. Vabbè, deve essere così, deve essere così, deve essere perfetta. In modo da inquinare, a non sporcare, cazzo, a respirare questa roba, cazzo. Anche disinfettante, cazzo, il suo fumo, cazzo, si è aderito anche il capo, questo fiago di questo fumo, cazzo, si soffoccheggia, cazzo. Infatti la mia, io gli ho dato la biru su strade lunghe, la tiro parecchio per farla sfogare un po' e toglierci tutto il fumo accumulato per non filmarsi, deve essere pulito, ecco cos'è. Gli ho dato li voglio fare nella 80 in terza, faccio pulire il filtro antiparticolato. La mia, più discetto lo fa la mia, ma c'è più discetto, anche se sono strade lunghe, non va più discetto, Tommaso, io che non l'ho fatto andare, è più di gatto, però qualche volta ha preso a mio figlio e l'ha fatta camminare, e poi c'è io, è dormita ancora la macchina mia, ti puoi immaginare, e quando la prende il mio figlio, quello la tira, e già li fa bene ogni tanto a tirare. No, ma il fatto è che a me, se non la faccio camminare per un chilometro, a 80, che devo liberare il filtro antiparticolato, lo devo liberare, anche se no mi si intasa e mi si ferma, ecco cos'è, quelli lì funzionano così, funzionano. Questo non lo sapevo. Già lo sai, allora è chiaro che ti fai quel trattamento per cui sei tranquillo, non si vede. Va bene. Già va bene, già va detto, va. Va detto, io chiudo, vai, sentiamo domani se coincide. Buon proseguimento, grazie anche a Calatato. Ci sentiremo, ok? Ok Gian Maria, alle prossime. A risentirci. Ciao Gian Maria, buona cena. Ci risentiamo alle prossime.